domani mi porto l'insalata e il riso. E quella ti teccia proprio quella, se mangi chissà la deve mangiare, so anche per il tutto, poi quella proprio ti teccia bene. Oppure mi piacciono molto le uova ripiene, le uova sode ripiene, mi tolgo il rosso, mi metto maionese e coso e tonno, lo pesto bene e poi li riempio, adesso che sono buono. E già lo so, anche a me piacciono. Oggi arte culinaria. Guarda Nazzarì, che bella cosa che ti ha mandato, guarda. Aspetta, aspetta, guardo. Guarda che bel regalo, guarda, eh? E pure Rubio Kitua. A cacciarti l'ho mandata. No, io non ho visto nulla. Me devo muovere. Apri, apri che. Mentre impacchettata, è bella col fiocchito. Raimondo me l'ha mandata. Cioè, sono il corriere Mondo Uso, quello che te la baracchino, Natali. Raimondo, no! Come faceva di nominarti? Magari me lo ricordo, boh. Adesso non ce l'ho presente. No, non mi tiro, non l'hai mai messo, Raimondo e basta. C'aveva l'aereo che da Platamona volava, aveva la pilottina Portoconte. Erano presentate di Monti Porcellana, mi sembra. Magari l'avrò conosciuto pure se volava. E me l'ha mandato lui, dentro di mandare le cose, mi ha mandato la gente. Lui è già in aperta, dai. Sì, che l'ha aperto già. Io ce l'ho davanti a me, nel computer c'ho WhatsApp, capito? Dai, per quello dal telefono non ne guardo mai, lo guardo direttamente dal computer. Ma ci sono rimasto male, ragazzi, se l'altro più del pacco non lo apri. Tu vuoi troppo allora? Mica mi fate male. Bella gussa. Ci vuole una cosa che a me mi fa male, devo darmi le dare, io la voglio dire. Gianni, apri la tendo che ti ho mandato, guarda. Però sono più vestite, dai, sono le befane. Vabbè, a me mi piace chi sa di mezzo. Quella la chiamano ciappetta. Ecco. Se tutte le befane fossero così, viva le befane. Avvero mi, Toni. Mi c'era chi sa befana la rimani, chi fa vita la rasura. Ehi, a chi c'era proprio buonazza, mamma mia, cara. Mi vedo magnete con luci, poi una persona come me, molto educata. Anzi, arrossivo quando la guardavo, cara. Davvero diventavi faccio suio, Toni. La tua faccia. Cazzo siete maliziosi. Vedi, è una persona per bene, tranquillo. Entro baracchino e mi avete maliziato, cara. Ci stiamo portando sulla via della perdizione. Allora, vedi cosa vuol dire. Ah già, pure con Padoia a me. A me il suo Gianni mi ha ruinato. E lui vuole andare sempre là a prendere il caffè perché c'è quella tipa titona. E se no, per cosa ti credi che vada lui? No, certo non vada per la frittella, no? Beh, venire a una con l'occhio di Alessio e poco di mia zia Gianni. E ma Gianni deve fare bravo. Che quella è come la crema di matematica. Male fa la carestia. Così diceva Felix. Cappa cappa. Miau. Già le state dicendo cose di poco di maggiorate, di cose. Io vado lì perché è un bar elite, ci va gente elite, non mi piace andare in quei bar dove ci sono delinquenti, che sa fare le balanda, ce l'ha votato lì. Guarda, in questo bar in via Lune Sole. Praticamente stavamo bevendo la birra con questo amico mio, è arrivato questo qua e ha detto un bicchiere di birra, si vedeva che era mezzo gutto, stava in un usoio e da voi la muso da basso in usoio e stava prendendo il bicchiere mio. Cioè, scusa, ma quello lì è il bicchiere mio? No, io ce l'ho io, io mi dai una birra, cazzo. Per poco non ci attacchiamo, meno male che il barista ti ascolta, tu il tuo te l'hai bevuto, paga e vattene, l'ha detto. Io gliel'avevo versato in testa qua, ma non garantiva il magio. E va, proprio tutto, cioè, secondo chi trovi, capito? Si vedeva che aveva una faccia un bel losca, losca proprio, si vedeva che era, lo dici, delinquenti, dici, rompi il bar. Per dirti, no, a me piace andarmene al bar, starmene tranquillo, farti quattro chiacchiere e andartene, non mi piacciono queste storie. Un'altra volta eravamo a Molignano Alghero, dove ci sono quella, dove c'è quella scalinata, nella passeggiata, lungo la passeggiata, e stavamo bevendo e cose, sono arrivati questi di Mosa, che sono quelli che rompono sempre le balle, e c'era il cameriere e stavano giocando con gli ombrelloni, perché era d'estate, non c'erano gli ombrelloni, e stavano chiudendo e aprendo. Il cameriere si è avvicinato e dice: scusi, per cortesia, lo può lasciare l'ombrello? E lui gli ha detto: tasco, ma a me non me lo dice manco mio padre di fare le cose. Ha pieno di una cotta dipinta e si era rampato da ricarico, lo va su, io non ingaggio tutti i dazi, che va via pieno di roba. Insomma, è successo un casino. Rissa, a casa sono intervenuti quelli del bar, per mandarli via, è successo la mezza rissa, ci siamo alzati e ci siamo andati, per dire, no. Un'altra volta invece è successo a Ruscello, lo stesso, questo qua se ne ha tolto la cintola dai pantaloni, ha cominciato a curia questo qua, un casino, dopo sono arrivati gli amici di questo qui, un casino è successo, sempre di Mosa, nella zona di Alghero, questi di Mosa sono rinomati per il casino che fa. Ma la sua si occupa di te? No, io sono Minobi. No, invece non tuccio. Non potevamo farmi da sobrattenno. Magari Tonino si sarà spostato, boh, io già sono qui. Papà, oh yeah! Cosa ti fa male già? Cosa ti fa male? Si vede una cosa che avevi fatti male, si vede una cosa che avevi fatti male, si vede una cosa che avevi fatti male, levami le dali, non la voglio vedere. Anda beh, ma Lucani c'è calamaiendimi. Ehi, stai già tutta la dentro un mito. Scende giù, è come me. Io mangio i miei curi, come li sto facendo? Perché mi sento debole, ma debole però. Ehi, certo che, certo. No, il mio è sempre il bispo tutto il giorno, abbassa i calamaiendimi, non è come il tuo che sono, quei cani sono tutti così che si mettono a dormire, come quello di Claudio per esempio, e c'è anche un esempio dei drummidi. Chi c'è uno, chi c'è anda, adorra, e poche vigile, mi, come ti basta alcuni in carriera, cazzo, attacca subito a baggià. No, il mio abbaia solo quando c'è bisogno, dai, se no non sta sempre abbaiando. Abbaia addirittura se sente gente nelle scale, si avvicina alla porta o così, col pelo dritto, ascoltano, poi se sente che sono, che gente che abita lì, niente, ma se sente che non sono persone che abitano lì, come sta abbaiando. Isso sì, e quei cani sono fatti così, so. Ciazzini sempre a calamaiati, ciazzini, e invece chi c'è, no? Chi c'è sempre andendi, durrendi, ciazzi, sempre a me e a Concetta. No, ma che Tyson, anche Tyson è vigile, è abbastanza vigile, solo che per dire dopo pranzo io sa che mi curico, aspetta a me pago casi buruendo. Ah, isso sì, quando mi cocco io e duro segue a ruota. La notte è lo stesso, se mi sdraio nel divano lui viene e si sdraia in terra sul tappeto e sta vicino a me. E c'è sempre vicino al padrone, Lugano, chiaro zocco è così. E poi adesso che sa che non sto bene, mi sta sempre leccandomi la mano. Perché se ne accorge lui, mi, la digrini, Lugano si inabizza. E poi un po' lo porta Marco, un po' lo porta Elena, un po' lo porta Maurizio, insomma, se ne accorge che non lo porto io giù. Prima lo portavi sempre tu, adesso lui se ne accorge che tu non lo stai portando, capito? E anche il mio se ne è accorto, che lo porta sempre Concetta, perché la sera lo portava lei e la mattina lo portavo sempre io. Però va, un chissà studia di Lanca, è l'offia da studia, e lo sta sempre portando lì. Se non vi... Non si è uscito già. Tonino, lascia stare i gelati. gelato ci ha preso qui dal pozzetto. Oppure al telefono ed è innamorendi e l'aga l'innamorà. Pro caridate, ma cos'è innamorendi? Che Tonino è di cuore freddo, eh? Come ti dici tu, io faccio rongori di brida, non mi innamorerò mai più. E visto che io te l'ho detto, quando capiterà l'occasione vedrai che anche tu ti ramollisci. E così è stato. Infatti io, è raro che mi poteva capitare. Ma non ci conosciamo manco noi, quello lì è una questione di gabbo, di non ci conosciamo manco noi, capito? A parte che c'è il grande fratello, quello che fa forum, ma è innamorato questo di Sabicina, lo tratta come in TV, intanto li sa se va. Se uno è innamorato. Che se vede Dio? Mia Torre Squale, omì, ciao Dore. Allora vedi attore, è sempre innamorato lui. Vai da un poco. Andiamo bene, andiamo dopo. Io ti grido, buonasera. A tutti e due, se siete in tre è meglio. No, eravamo in tre, uno l'avevo messo in cammino. Ah, fa ruda, si è buccata. Andiamo. Natali! Comunque l'ho cercato e l'ho trovato. Devo telefonargli lunedì. Non è capa. Oh, andiamo e andiamo. Adesso bisogna vedere se c'è a posto, ti fa subito andare. Infatti, andiamo appunto a quel posicuro. Andi. Se c'è a posto ti fa andare subito, sì. Guardano e via. Ti guardi il numero, se non lo sai dove è lo Zecchia, è facile, già lo trovi subito, era un portone grande. Salendo sulla sinistra, Infatti, salendo sulla sinistra. L'importante è che vi sia posteggio. Chi suo è? Quello è un po'. Bisogna che ti dai da fare, cercatelo da Viale Dante, magari. Guardi se c'è qualche parcheggio lì. Infatti, me lo cerco da quelle parti, me lo cerco. Se lo trovo subito, è meglio così, infatti. E poi andiamo lì, quando mi deve far andare. Se no, io l'ho parcheggiata, senti, l'ho parcheggiata la usa, le cacce di San Sebastiano, c'era il parcheggio, e me l'ho fatta a piedi, ma allora potevo camminare, adesso non lo farei più. Vabbè, io già là, che gli allaggio ancora buoni, quindi già me l'ho fatta a piedi. Mirami, ciao Tore. Penso che stiamo parlando male di me. Se vi siete sopravvolati, cos'è Natali? Giudizio attore, via da Edu che va all'anchivone, può camminare. Fissa va! Aspetta che me li tocco, così almeno rimangono anche in caldo. Bisogna vedere se tutti là che sono buoni. Magari lui era buono, una no. Comunque ero al telefono già. Me l'ho immaginato. Doppio telefono, perché prima con la persona e poi ho telefonato per la pizza. Quindi i fughi non ne faccio più, ci mangiamo la pizza. Chi deve venire? Mi ha chiamato lì. Io pensavo che era offesa, invece il cornetto alla crema è sempre buono. Dulci, una scena che chiude tutto Nino, una scena sempre innamorenti. No, sto innamorando, è uno sfoghetto, dai. Sinuso, quanto siete maliziosi. Mia, ma siamo maliziosi. Mi dissocio. È te, Bruetto. Hai capito tu come sono questi due? Attenti quei due. Maliziosi sono tutti e due. Se sono così, bisogna lasciarli andare così. Se no vado di bici, di virudo. Gli altri grido. Questo Tonino. Io ho pensato che stavo mangiando il gelato, invece era il telefono. No, ma il gelato me lo mangio dopo la pizza, non ti preoccupare, io è lì. Per scarti le idee, così è. Cosa, Natali? Per rinfrescarti le idee, così è. Eia, perché poi diventa tutto rovente, non conviene raffreddare un pocherino. Se no, non lascia avere la glicemia. Non preoccupati, dunque, la glicemia è sempre sotto controllo. Tu c'è di non fosse a brodo. Cosa? Forzato. Occhio che non fossi a brodo. No, tranquillo che le cose le faccio con doppia testa. Ehi, non lo sai tu, se lo stomaco lo regge. Regge, regge, come se regge. Andiamo bene, Gianni, vetturale. Ehi, ma lui era a dieta, capito? Doveva scendere la pancia, era a dieta, quindi non doveva più mangiare cose che gli facevano male, che lo facevano ingrassare, boh. Il dottore, una pizza ogni tanto, qualche gelatina già fa bene. Ehi, ma ogni tanto non ogni lì. Ehi, vabbè, ogni tanto vuol dire una oggi, una domani. Ma te l'immagini, Ettore, ma te l'immagini questo Tolino, che non si può fare il cacio di lana. Più che lana, che cazzo. Tanto senti maliziosi. Natali, chi sei tu che le hai dato corda a mia Gianni? Non è vero, io non ho dato corda a Gianni. E lui che ha dato corda a me. Dopo se ti ricordo, a me mi hai mandato. Ma devo portare aereo, dai. Adesso faccio da mangiare il taglio così che hanno alzati. Magna e si porta lì. Colpirà. Ci sentiamo ragazzi, state bene, sto lì, magna poco perché fate male. Colazione. Poi come si nata, poi vado a prendo quello a fare e vengo su da te. Non ho capito nulla, Tony, stavo salutando e tu mi hai parlato sopra. Aia, è che stavi salutando. Perché con Baracchino saluti tu? Stavo salutando perché me ne stavo andando. Ehi cavolo, così presto, non c'è bene di accompagnare. È presto, non vai alle 8:30. Mi devo preparare. Allora devo prendere Parina, tutto quanto e fare da mangiare a Tyson. Adesso se lo so a fare tutto. Ho detto 10:30, 11 sono da te domani, va bene per quella fare. E già va bene, dai. Ok, va bene, dai, ciao, buon corix e Gianni, stammi bene, salutoni. Sotto chi tocca. Ciao Gianni, ciao. Buon proseguo, anch'io ne approfitto per chiudere qua, che adesso rientra quello di... se no magari lo disturbo e non si può vedere la televisione. Il premio si legge a mia impresa, l'antenna chi c'è a chi me è urtendi. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti. Capo, dai, anch'io mi allontano che mi devo preparare. Ok, va bene, ciao Tadino, ciao Gianni, ciao Tore, statemi bene, poi proseguo. E salutoni chi ci viene ascolto. Ciao ciao. Ehi Antoni, portati un po' di cacciaviti e cosa, perché io quelli che ci sono un po' malandati. Ehi, già portati qualche cacciavite, la forbice è buona, se della cinghia, la misura giusta. Non preoccuparti, va bene. Ciao ciao, ci sentiamo, ciao. Via, ciao. Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Tonino, statemi bene. Ok, ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.